Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Maurizio De Lucia, vorrei partire dalla conclusione. Quale sia in questo momento la situazione in Sicilia rispetto al cappio del racket? Sta maturando una presa di coscienza che con questo fenomeno non si può convivere, questo indubbiamente. Oggi la situazione è quella in cui un imprenditore che denuncia ha intorno a sé una rete di protezione non solo istituzionale ma anche associativa, volontaristica, che prima non c'era. Questa rete cresce e si sta rafforzando momento per momento, ma certo il numero di imprenditori che a questa rete si avvicinano è ancora molto molto modesto. Diciamo che siamo in un momento in cui c'è una luce, ma è una luce che si vede ancora da lontano. Un cappio intorno al collo degli imprenditori che spaventa e toglie il fiato. Può far sopravvivere anche per lungo tempo con un filo d'aria. Può a un certo punto stringersi fino al soffocamento, spezzarsi o lasciar morire in una lenta agonia. Il pizzo e le tangenti continuano a strangolare la Sicilia e i momenti di crisi diventano ancora di più occasioni ghiotte per la mafia. Così Cosa Nostra allunga i suoi tentacoli sulle aziende in difficoltà e cerca di sottoporre alla sua legge delle estorsioni anche chi viene da fuori, come i cinesi di Palermo. Anche questo, ad esempio, ordina il boss più potente su Palermo, Gianni Nicchi, e anche di lui ci parla Maurizio De Lucia, PM della direzione distrettuale palermitana, in prima fila da 20 anni contro il racket, e ora, insieme ad Enrico Bellavia, racconta come il pizzo strangoli le imprese nel cappio, appunto, edito da Burra. Se parliamo di una rivoluzione non c'è stata e probabilmente non ci sarà mai. Un lento e concreto, però consapevole, movimento verso, come dire, la liberazione dal pizzo, se vogliamo usare questa parola, indubbiamente sì. Oggi non c'è dubbio che si continua a pagare, e si continua a pagare in tantissimi, e a denunciare ancora in pochissimi, però ripeto, certamente rispetto al tempo di Libero Grassi sono cambiate molte cose e soprattutto negli enti esponenziali, penso soprattutto alla posizione di Confindustria, è cambiato moltissimo. Dai tempi in cui Libero Grassi era un uomo isolato e abbandonato dagli stessi industriali, ai giorni d'oggi, dove uno dei punti programmatici più importanti del programma delle prese di posizione di Confindustria in Sicilia è proprio quello del no al pizzo, che vuol dire poi più in generale no alla mafia, no all'inserimento delle organizzazioni e delle imprese mafiose nel sistema degli appalti, beh, ecco, il cammino si è fatto. Voi riportate nel saggio un passaggio molto interessante della relazione del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso su come l'attuale crisi finanziaria ed economica possa rappresentare una ghiotta occasione per l'arricchimento delle mafie. Lo state riscontrando? È così? È oggettivamente così. Lì dove il mercato legale è in difficoltà, l'altro mercato, quello illegale, non lo è affatto. E quindi si moltiplicano le occasioni per chi ha denaro contante di fare buoni affari in un mercato in crisi. La possibilità di rilevare non soltanto immobili, ma imprese, di inserirsi quindi nel mondo del lecito, del legale, attraverso il denaro sporco che non manca alle organizzazioni mafiose, è una realtà con cui facciamo i conti quotidianamente, che in situazioni di crisi è ancora più significativamente evidente. A questo si aggiungono una serie di meccanismi che possono rendere più facile la commistione fra mercato illegale e quello legale. Non c'è dubbio che lo scudo fiscale può prestarsi con grande facilità alla intromissione di capitali sporchi nel sistema dell'economia legale. Una delle caratteristiche della mafia, di Cosa Nostra in particolare, è quello di essere elastica, di sapere trattare con la sua vittima. L'imposizione del cosiddetto 3%, ad esempio, è un'imposizione, sì, formalmente presentata in questo modo, ma trattata poi con elasticità. Se tu non sei in grado di pagare oggi, non ti preoccupare, io verrò fra un mese, mi pagherai magari con gli interessi, o magari mi pagherai in maniera rateizzata quello che mi devi, certamente mi pagherai, ma non sarò io a strozzare te che sei la mia gallina dalle uova d'oro. Oppure sei in crisi, sei in difficoltà, io non ti chiedo di pagarmi il pizzo, anzi ti aiuto, sono io che ti verso la somma che ti serve per andare avanti, ma quello è il momento in cui apro una porta ed entro nella tua società, nella tua impresa e la faccio mia, trasformo un'impresa legale in un'impresa che diventa mafiosa. E i messaggi per far arrivare questo tipo di comunicazione, anche da questo punto di vista, mi è sembrato che sono molto spesso analoghi, se non addirittura uguali, la colla piuttosto che, cioè la gradualità dei messaggi. Un codice che hanno tentato di applicare anche a gente venuta da fuori nel fare commercio in Sicilia come i cinesi. Sì, e qui dipende naturalmente, perché la regola è meno rumore si fa, meglio è. Dopodiché i segnali si danno a chi li capisce. Se qualcuno non li capisce si danno segnali più forti e i cinesi che si stanno insediando nelle realtà metropolitane della Sicilia c'è necessità di qualche sforzo in più, quindi danneggiamenti più massicci, danneggiamenti a tappeto, tutto quello che può fare capire anche a chi viene da fuori ed è un soggetto debole, perché poi è ben diverso il discorso per i soggetti forti, che qui comunque bisogna, come dicono loro, mettersi a posto. Uno che voleva il pizzo anche da questo tipo di commercianti, cioè i cinesi, è Gianni Nicchi, un personaggio di cui si è tornato a parlare dopo la cattura di Mimmo Racuglia, un personaggio importante per le estorsioni e per il controllo del pizzo su Palermo? Ma direi di più, un personaggio importante in questo momento nelle dinamiche dell'intera organizzazione mafiosa. L'organizzazione si regge anche su soggetti che ne rappresentano in qualche momento il punto di riferimento, di mediazione, di decisione. Molti, quasi tutti per fortuna, sono in carcere, alcuni capi sono fuori, Matteo Messina Denaro prima di tutto, ma anche a Palermo Gianni Nicchi. La sua importanza sta in questo, nel fatto che essendo stato allevato per diventare un capo, oggi, forse anche suo malgrado, vista l'età e visto il fatto che tutti gli altri sono in carcere, è di fatto il soggetto al quale fare riferimento in tutta la città di Palermo. A Palermo il pizzo è ancora la regola numero uno per la mafia nei quartieri principali del commercio? La mafia non può rinunciare al pizzo. Il pizzo, l'estorsione per Cosa Nostra, non è tanto fare profitti, perché quello si fa in maniera molto più massiccia, ad esempio con il traffico di stupefacenti. Il pizzo è controllo del territorio, è dimostrare la propria sovranità sul territorio e la sovranità, il tentativo di essere come lo Stato, è una delle cose che fa di Cosa Nostra una mafia diversa da tutte le altre organizzazioni criminali. Un controllo del territorio che si vuole estendere anche a siciliani al di fuori della Sicilia. Voi raccontate nell'assaggio anche l'episodio della sala bingo di Moncalieri. L'affare era grosso. Si chiedevano molti soldi e li si chiede a soggetti che però sono appunto siciliani, che stanno fuori dalla Sicilia, ma che i codici dei siciliani li conoscono, che sono ricattabili in quanto siciliani. E poi è anche, come dire, l'occasione per dimostrare che Cosa Nostra si interessa a tutto quello che produce profitto, i vecchi affari come anche i nuovi affari. Non c'è dubbio che in tutto quello che è gioco, clandestino o anche non clandestino, l'attenzione della mafia sia molto, molto massiccia, perché lì circola un sacco di denaro contante e, come noi sappiamo, scambiare il denaro è una delle cose che sta più a cuore all'organizzazione mafiosa. Il gioco anche come paravento per giustificare i tanti soldi liquidi, ad esempio anche attraverso l'acquisto di schedine vincenti. Più volte nel corso delle nostre inchieste è comparso il fenomeno della schedina che giustificava la somma di denaro. Il meccanismo è molto semplice, la capacità di conoscenza nel quartiere che ha l'organizzazione mafiosa fa sì che è facile individuare, parliamo del Totocalcio di una volta, quello che ha fatto 13. A quel soggetto la mafia propone un affare, quando non un'estorsione, compra la schedina e poi sarà il mafioso a presentarsi all'incasso con quella schedina, che diventerà allora il titolo giustificativo di una somma di denaro che in realtà non è il denaro della vincita, ma è il denaro riciclato da altre attività illecite. Naturalmente poi diventa un problema molto serio per l'investigatore arrivare a scoprire che tutto questo è stato costruito dall'organizzazione mafiosa e non è il frutto di un colpo di fortuna. Storielle. Storiacce. L'attuale crisi economica è un'occasione ghiotta per l'arricchimento delle mafie. Alla commissione parlamentare il procuratore Piero Grasso l'ha detto esplicitamente a febbraio. Ora bisogna ancora di più stare in allerta per evitare che la malavita si impossessi di quelle imprese che prima ha tramortito, togliendo loro l'aria col pizzo. Come un cappio è infatti per le vittime l'imposizione delle estorsioni e non a caso il cappio è il titolo del saggio del PM palermitano Maurizio De Lucia con Enrico Bellavia. Troppo spesso, naturalmente dal punto di vista di Cosa Nostra, le forze di polizia e la magistratura hanno scoperto l'estorsione a prescindere dalla denuncia della vittima. Questo inevitabilmente davanti a una vittima che continua a negare di essere appunto vittima di estorsione comporta la sua incriminazione per favoreggiamento con i problemi che ne conseguono. Cosa Nostra allora che cosa ha proposto sostanzialmente? Appunto una forma di assicurazione, non so poi quanto realizzabile, e cioè quella secondo la quale non si sarebbero più tenuti, almeno in alcune zone della città, libri mastri che appunto la polizia troppo spesso dal loro punto di vista ha recuperato. Su larga scala mi pare una proposta rassicurante, ma da qui a realizzarla ce ne corre perché l'organizzazione ha bisogno di tenere i conti in ordine. Per tante ragioni, esterne ma anche interne. Nella storia di Cosa Nostra sono molti gli omicidi fatti perché, come dire, qualcosa non tornava nella gestione delle casse. C'è anche un tentativo di salvaguardia dal loro punto di vista di nomi celebri? Beh, sì, ma non è questo il dato significativo. Dal punto di vista dell'estorsione non si tratta di salvaguardare il commerciante prestigioso, qui si tratta di garantire l'intero sistema, di evitare che qualcuno possa denunciare e poi a seguito di quella denuncia ne vengano altre, perché se salta il sistema salta il controllo del territorio da parte dell'organizzazione. Quindi diciamo che questa è una garanzia volta a tutti i commercianti. Cerchiamo di evitarvi i problemi, di rendere più difficile la vostra identificazione agli occhi della polizia, ma voi continuate in qualche misura a sostenerci pagando quello che noi vi chiediamo. Sì, però non c'è soltanto una imposizione del pizzo ai commercianti, piccoli o grandi che siano, ma ci sono gli appalti, ci sono le grandi opere pubbliche, ci sono grandi realtà imprenditoriali come la Calcestruzzi o come, ad esempio, questo venne anche trovato in un pizzino, se non sbaglio, Can 5, la storia della tangente, o meglio, era definita, e lei lo spiega nel saggio, come un regalo quella alla Fininvest. Qual è la differenza? Beh, è molto sottile la differenza, rientra nelle logiche di interpretazione del linguaggio mafioso. Al centro di tutto c'è comunque una somma di denaro che entra nelle casse dell'organizzazione, ma chiederla come imposizione vuol dire in qualche modo fare violenza e opprimere la vittima, chiederla in maniera soft vuol dire in qualche modo ingraziarsi questa vittima e tenere un canale aperto con la vittima stessa per ulteriori favori. Non ci sono anche casi in cui è la stessa potenziale vittima a farsi avanti ancor prima di una richiesta per mettersi a posto? Molto spesso abbiamo incontrato vicende di questo tipo. Il sistema è talmente perfetto dal punto di vista dell'organizzazione mafiosa che chi sa che con l'organizzazione mafiosa si deve confrontare, cercano loro il mafioso prima ancora che arrivi la richiesta mafiosa, ma ci è capitato anche quando ci siamo confrontati con i grandi appalti e con le grandi imprese. È processuale, un dato affermato in sentenza, che nella costruzione di un grosso centro commerciale molto vicino a Palermo, Villa Abate, la grande società multinazionale che si è occupata di questo centro commerciale per prima cosa non ha trattato con le istituzioni che si sono preposte alla sicurezza, ma lo ha fatto col capo della famiglia mafiosa di quel paese al fine di ottenere da lui tutte le assicurazioni sulla sicurezza che cercava per poter avviare un grossissimo affare. Un elemento questo che vi è stato più volte raccontato anche dalle voci di dentro, come avete definito i vari collaboratori di giustizia, tra cui a Casano, o ancora a Ferrante, di cui parlavamo prima, o ancora di Cucuzza. Come era stato all'inizio con Falcone, quando i primi pentiti avevano raccontato il sistema di Cosa Nostra, questi che vi hanno descritto l'organizzazione anche della riscossione del pizzo, che tipo di descrizione gli hanno fatto? Chi ha deciso di collaborare ha ammesso l'importanza della centralità di questo tipo di imposizione per Cosa Nostra? Sì, devo dire, fin dai primissimi collaboratori, lo stesso Buscetta ne parlava a Falcone, e poi dopo Gaspare Mutolo, fino appunto a quelli che ha citato lei, Ferrante, Cucuzza, ma un po' tutti, perché non c'è mafioso che non abbia iniziato la sua attività criminale attraverso il tirocinio, diciamo così, dell'estorsione. Serve a formare l'aspirante mafioso che diventa uomo d'onore, e tutti concordemente affermano che serve soprattutto a dimostrare la presenza dell'organizzazione mafiosa sul territorio. Rimane certo il dato che coi collaboratori di giustizia, se si vuole fare effettivamente una seria attività di repressione del fenomeno mafioso, si deve sempre fare i conti, e sono irrinunciabili da un lato e da trattare con grandissima attenzione, scrupolo e soprattutto professionalità dall'altro lato. Raccontano però anche la lungimiranza di investimenti della mafia, per cui quando, ad esempio, e voi riferite questo episodio non poco significativo, crolla il muro di Berlino, decidono di investire ad est, di fare investimenti di tipo immobiliare. Adesso, se lei dovesse dire quali possono essere i settori, i lavori in cui la mafia stava investendo? È troppo facile dire che dovunque ci sono soldi che circolano c'è l'attenzione della mafia. Col crollo del muro di Berlino non soltanto si sono interessati al sistema edilizio dei paesi d'oltrecortina, ma la cosa che stava più a cuore a loro era entrare nel sistema finanziario, bancario, l'acquisto di banche. Oggi naturalmente bisogna anche qui guardare a qual è il sistema economico e a quali sono gli interessi, ma non slegati dal territorio. Pensiamo ad esempio in Sicilia a tutta la politica delle energie alternative, che è una cosa alla quale Cosa Nostra guarda con grande attenzione, e poi naturalmente non possiamo non pensare alle grandi opere. Non sono solo il ponte sullo stretto a cui va il pensiero immediatamente, ma anche gli affari legati all'Expo del 2015 a Milano, e anche un'altra opera che ha un importo economico di gran lunga superiore anche a quella che si immagina di spendere per il ponte, che è il nuovo traforo del Brennero. Che cosa sono le imprese di carta e perché interessano alla mafia? Le imprese di carta sono proprio quelle che, al di là della loro produttività, che alla mafia non interessa affatto, consentono alla mafia di fare girare soldi. Sono ad esempio tutte quelle imprese legate al meccanismo della 488, che è una legge buona nei principi, ma che ha dato pessima prova di sé nella applicazione, soprattutto in Sicilia. Troppo spesso si sono viste finanziamenti elargiti, capannoni costruiti, e poi tutto finiva là, e tutto il denaro erogato finiva in altri filoni. Ebbene, anche queste sono attività, sono cose rispetto alle quali la mafia ha sempre avuto grandissima attenzione. E infatti parliamo appunto proprio della legge per i fondi pubblici per il rilancio di alcune aree. L'ultima cosa che vorrei chiederle, dottore, riguarda un dibattito più recente sulla vendita dei beni confiscati alla mafia. I beni sono la cosa che sta più a cuore a Cosa Nostra. Lo dice ad esempio Nino Rotolo in una importante intercettazione: c'è chi ha avuto i morti, gli altri, ma noi, dice, parlando a uno dei perdenti della guerra di mafia, abbiamo avuto i beni sequestrati. In questa equivalenza che fa fra chi è morto e chi ha perso i beni, c'è tutta l'importanza dei beni per Cosa Nostra. Quindi non si tratta appunto soltanto di sottrarre i beni all'organizzazione mafiosa, ma di tenere questi beni in mani sane, per evitare appunto quei giri che poi fanno sì che l'organizzazione mafiosa se ne riappropria. Di principio, se si potessero affidare tutti questi beni esclusivamente allo Stato o ad organizzazioni di provata, diciamo così, fede antimafiosa, problemi non ce ne sarebbero. Vi sono però una serie di beni su cui gravano ipoteche, che sono di difficile trattabilità. Beh, per questi beni si può anche immaginare una cessione sul libero mercato, ma quello che è fondamentale è che chi paga lo debba fare con denaro sempre tracciabile. La tracciabilità del denaro rende molto difficile il reinvestimento di capitali mafiosi e quindi nel particolare rende praticamente impossibile il riacquisto dei beni da parte della mafia. Mi rendo conto però che parlare di tracciabilità del denaro in un momento nel quale anche in tema di lotta all'evasione si è fatto un passo indietro rispetto a questo argomento è cosa non di, di stringente realizzabilità. Possiamo anche immaginare, ripeto, di vendere i beni, basta che sappiamo non solo a chi li vendiamo, ma che colui il quale l'acquista ci dimostri che i soldi sono soldi puliti.